Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Filippa Oreggi regge la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Riabilitazione, questo è il tema di oggi e direi di entrare subito nell'argomento, nel tema o forse nel problema, perché a volte sembra che questo percorso sia faticoso e non sempre in grado di dare i risultati sperati. Voi che esperienza avete? 800 24 0024. Oggi faremo una panoramica a 360 gradi per capire quali sono le indicazioni da seguire per recuperare il movimento e il tono muscolare che traumi, incidenti, interventi, immobilizzazione o patologie come ad esempio la lombalgia, la cervicalgia possono aver compromesso. Ci faremo quindi aiutare da due figure professionali distinte ma che collaborano, un fisiatra e un chirurgo ortopedico, perché oggi ci focalizziamo su un tipo specifico di riabilitazione, proprio quella destinata all'apparato muscolo-scheletrico. Quindi, se avete preso una storta alla caviglia giocando a calcetto, se siete stati operati al menisco o alla spalla, se sono i legamenti il vostro problema o un gesso che vi ha messo in panchina per un po' di tempo, chiamateci 800 24 00 24. Ma rivolgo anche l'invito a chi non ha mai avuto traumi né incidenti eppure è sempre lì che lotta con un dolore alla schiena, un dolore al colle, quindi deve cercare di evitare quanto possibile le ricadute o allontanare i momenti di dolore. Vado subito a presentare gli ospiti che sono qua con me in studio: il dottor Marco Galli, che è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Lei è una new entry. Sì. Invece giochiamo in casa con il dottor Gianluca Melegatti, che è responsabile del centro di riabilitazione sportiva dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Anche questa volta noi in redazione abbiamo più volte chiesto al dottor Melegatti di portarci un rugbista che vediamo dalle foto, insomma, da ragazzi degni di... Però manterrò viene sempre promessa. Da solo. Manterrò comunque la promessa. Nel caso mai rispettasse le promesse, vi avverto con anticipo. Insomma, allora potete come sempre mandarci messaggi al 349-238-6666. Io direi, dottor Melegatti, lei che insomma si occupa quotidianamente di riabilitazione, è un po' il suo pane, in una battuta, come possiamo definirla? Possiamo definire la riabilitazione come il percorso terapeutico che ci porta al recupero della normale funzione, funzione perduta per una patologia, per un infortunio o per un intervento chirurgico. Ecco perché parliamo di riabilitazione ortopedico-traumatologica o riabilitazione neurologica o cardiologica o anche respiratoria, dipende dal tipo di patologia con la quale abbiamo a che fare. Senta dottore, però vogliamo fare un po' una differenza, se esiste, me lo deve dire lei, tra la riabilitazione che deve seguire a un trauma e invece la riabilitazione che deve seguire a un intervento. Insomma, quando il dottor Galli ci mette le mani addosso, poi noi ci dobbiamo rimettere in piedi, dobbiamo seguire un percorso diverso. Invece se giocando, magari un giocatore di rugby, quelli famosi che lei dovrebbe portare qua, si scontrano e quindi si devono rimettere un po' in sesto. Devo dirle che in realtà non c'è una gran differenza, nel senso che i principi che regolano questo percorso terapeutico, cioè il recupero funzionale, sono gli stessi. Cambiano le modalità, cambiano l'applicazione e la scelta delle terapie appropriate, cambia anche la durata dell'impegno riabilitativo. Nell'intervento chirurgico ci occupiamo del paziente prima dell'intervento e dopo l'intervento e fino al suo recupero completo. Nel trauma, naturalmente, certo, solamente dopo. Dottor Galli, adesso che la chirurgia è sempre meno invasiva, tutti noi saremo portati a pensare che quindi i tempi della riabilitazione si accorciano. Certamente sì, è così, perché anche in ortopedia, come in altre chirurgie, negli ultimi anni si è sviluppato il concetto di mini-invasività, inteso come proprio un risparmio dei tessuti a partire dalla cute per passare quindi ai muscoli e tendini fino ad arrivare all'osso, che si è ottenuto attraverso la chirurgia artroscopica o addirittura anche con la chirurgia a cielo aperto. Questo cosa significa? Che essere, significa per il chirurgo essere meno demolitivi, sì, e quindi accelerare quelli che sono i processi di guarigione per preparare più rapidamente la strada alla fase riabilitativa. Ma lei che impressione ha? Noi la riabilitazione la facciamo poi alla fine oppure ci stufiamo a metà? Ma io credo che la riabilitazione venga fatta. La facciamo bene secondo lei? In alcuni casi sì, quella post-operatoria credo di sì, sì, che venga eseguita bene. Io credo che dipenda molto dal chirurgo, non solo dal paziente. Ci sono chirurghi che credono molto nella riabilitazione, come il dottor Galli, sì, e credo che questo sia un approccio moderno, importante, perché vuol dire valorizzare la riabilitazione e dare una valenza alla riabilitazione che è quasi pari all'intervento chirurgico stesso. Altri chirurghi magari non vedono ancora la riabilitazione così in quest'ottica e allora sono meno portati ad insistere col paziente nel seguire un percorso riabilitativo fino in fondo. Ma dottore, per chi crede nella riabilitazione, no? Noi ne parliamo proprio perché anche con le ricerche alla mano abbiamo visto, si può sostenere che la persona che segue un percorso riabilitativo corretto, fatto da diversi step, è sicuramente in vantaggio rispetto a chi invece si dimentica di farlo, lo interrompe, non lo segue. Parliamo di post-operatorio, ma anche post-traumatico. Ma ci sono dei protocolli o ognuno si attrezza un po' come vuole? Ci sono dei protocolli, o meglio ci sono delle linee guida che sono basate sull'esperienza scientifica e anche sull'esperienza professionale di ciascun operatore. È chiaro che non dobbiamo dimenticare il concetto di individualizzazione, cioè ciascun paziente è un paziente a sé, è un individuo e quindi ha delle risposte biologiche alla riabilitazione diverse. Quindi sulla base di un programma preciso, sulla base di linee guida precise, poi dipende molto dall'operatore sanitario, vedremo quali sono le figure, applicare queste linee guida al singolo paziente. Ecco, io sottolineerei queste le figure che fanno parte permettono il processo di riabilitazione. Tante volte abbiamo detto che la riabilitazione viene effettuata da un team. Ci sono diversi professionisti che collaborano insieme. Allora io li ricorderei ad uno per capire, perché noi spesso li confondiamo il fisioterapista con l'osteopata, col chiropratico, facciamo un po' di confusione. Sono figure fondamentali nella riabilitazione, nell'aiutare il paziente a rimettersi in piedi, e quindi io vorrei che con il suo aiuto riuscissimo a ben identificarle, oltre che ringraziarle sicuramente per l'opera che svolgono, certo, che è fondamentale. Allora io le dico che in linea teorica la situazione ideale sarebbe quella proprio di avere a disposizione un team riabilitativo composto innanzitutto dal fisiatra, che è il medico riabilitatore che si deve occupare della valutazione clinica del paziente e della compilazione di quelle linee guida, di quel piano riabilitativo che poi viene effettuato in pratica da altri operatori, per esempio il fisioterapista, che è la persona proprio che deve applicare queste metodiche individuate dal fisiatra al paziente e cercare attraverso la sua sensibilità e la sua conoscenza di far sì che il paziente riceva il massimo del beneficio. Abbiamo il massoterapista. Sì, ma in pratica il fisioterapista che cosa fa? Il fisioterapista utilizza terapie fisiche, quindi terapie con mezzi fisici, parliamo di ultrasuoni, parliamo di TECAR, parliamo di magnetoterapia, ma soprattutto utilizza le sue mani, quindi adottando questa terapia manuale che è fatta di recupero del movimento e della forza muscolare. Quindi attraverso un esercizio il fisioterapista è in grado di ottenere i risultati che tutto il team si... Quindi provando, chiudiamo gli occhi e l'abbiamo già inquadrato. Fisioterapista l'abbiamo detto. Seconda figura, il masso fisioterapista. La persona che si occupa del massaggio. Il massaggio è una metodica terapeutica importantissima che conosciamo fin dall'inizio dei tempi ed è molto efficace, fa parte integrante di un programma riabilitativo. Inoltre il masso fisioterapista, cioè il massaggiatore, è in grado anche di applicare le terapie con mezzi fisici. Abbiamo altre due figure professionali, l'osteopata e il chiropratico. Queste sono due figure professionali che spesso si trovano in equip, ma spesso anche lavorano per conto proprio. L'osteopata è una persona che ha un approccio kinesiologico, vale a dire un approccio globale di tutti i problemi di del movimento del paziente, e quindi lui mette in atto delle tecniche che sono tecniche osteopatiche proprio per cercare di recuperare al meglio la funzionalità dei vari apparati. Il chiropratico invece è un operatore che utilizzando una metodica che si chiama manipolazione riesce a sistemare, come dicono loro, alcune disfunzioni soprattutto della colonna vertebrale. Mi sembra di essere andata a scuola. Si ricorda quando a scuola facevamo gli specchietti? Sì. Ecco, a me. Allora, la riabilitazione è importante quanto l'intervento, ci scrive Katia da Bologna, deve essere fatta da personale competente. Purtroppo costa molto, poiché se deve essere seguita bene, bisogna andare in centri privati. Costa tanto, passa qualcosa al Servizio Sanitario Nazionale. Andiamo prima dei mercati a dare una risposta a Katia, perché poi abbiamo Giovanni da Brescia, Giorgio dalla provincia di Venezia, che traghettiamo dopo i mercati. Dottor Melegatti. Allora, diciamo che non è sempre vero che ci si deve rivolgere a dei centri privati. Purtroppo, e quindi abbiamo la possibilità di accedere anche a strutture pubbliche attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, nella maggior parte degli ospedali e dei centri e degli istituti di ortopedici. È chiaro che le liste d'attesa sono quelle che sono e quindi non c'è la possibilità di accedere in tempi veramente brevi. Ecco che serve però, i tempi però fanno la differenza nella riabilitazione. Spesso i tempi fanno la differenza purtroppo, e qui ci scontriamo certo, di fronte alla dura realtà. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di riabilitazione. La riabilitazione che deve seguire un intervento oppure un trauma. Ci occupiamo però di una specifica riabilitazione, quella che recupera il tono muscolare, articolazioni e movimento. Perché il termine riabilitazione può essere applicato anche ai percorsi che devono seguire anche patologie di altro tipo. Noi siamo focalizzati su questo, infatti abbiamo un fisiatra e un chirurgo ortopedico in linea con noi. Ma oggi, 1 ottobre, voglio parlarvi di un fatto. Allora, l'avete letto sul giornale: è disponibile nelle farmacie il vaccino per l'influenza stagionale. Parliamo della solita vecchia influenza che torna puntuale a farla parlare di sé ogni anno, e come sempre in linea con noi abbiamo il nostro influenzologo. Buongiorno a tutti. È come le tasse l'influenza, non scappa. Senta, professor Pregliasco, allora facciamo un rapido quadro della situazione a punti. Diciamo subito che il vaccino stagionale è diverso e distinto per composizione e per modalità di somministrazione dal vaccino per la pandemia influenzale del nuovo virus A, di cui tutti parliamo e abbiamo parlato più volte. Vero o no, professore? È importante sottolineare che purtroppo quest'inverno, appunto come le tasse, quest'anno avremo anche una variante, come spesso cade anche per le tasse, quindi virus A come protagonista, ma non solo, anche tre virus di origine australiana che sono appunto previsti nella composizione del vaccino stagionale, che comunque sia non deve essere nascosto e tenuto in seconda battuta, perché deve essere invece eseguito quanto prima dalle categorie a rischio, quindi dagli anziani, dalle persone con problemi cardiaci e respiratori, che ogni anno devono fare questa vaccinazione. Poi si vedrà sugli aspetti operativi per una eventuale successiva vaccinazione specifica anche contro il vaccino pandemico. Perché le categorie sono più o meno le stesse, vero professore? Di fatto sì, o meglio, gli anziani in genere cinque anni devono fare quello stagionale, ma non saranno una priorità almeno all'inizio per quello pandemico. I soggetti a rischio, quindi con problemi cardiaci e respiratori, invece gli verrà proposto entrambe le vaccinazioni, che possono essere eseguite in teoria insieme, però essendoci non ancora disponibile il vaccino li si può eseguire a due step successivi. Adesso prima il vaccino stagionale, dopo 3 settimane il vaccino specifico monovalente per completare la protezione di questo inverno. È importante, lei mi parla di 3 settimane, professor Pregliasco, quindi è importante che per chi dovesse vaccinarsi per quella stagionale, per quella A, si lascino passare 3 settimane? Esattamente, esattamente, in modo tale da avere quindi una copertura completa, perché ci aspettiamo una stagione che avrà sì 2/3 di virus nuovo, ma 1/3 di questi come virus stagionali, quindi 3 settimane per eseguire una protezione completa, prima la somministrazione di questo vaccino, quindi tanto prima tanto meglio è, e poi quello monovalente sulla base di una pianificazione che non è ancora precisamente definita, bisognerà aspettare la ASL di propria residenza per venire chiamati se si fa parte o si pensa di far parte dei soggetti a cui prioritariamente verrà somministrato questo vaccino. Senta, professor Pregliasco, io ho qua il dottor Melegati, che è responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. Le squadre sportive verranno vaccinate o no? Beh, è una cosa ancora da definirsi. Sicuramente già l'influenza stagionale, la vaccinazione stagionale viene eseguita, per questo appunto per i contatti che ho con alcuni medici sportivi, sì, così come eventualmente degli antivirali. Sulla vaccinazione pandemica bisognerà vedere la disponibilità di prodotto, perché ovviamente per primi sono considerati essenziali le vaccinazioni alle persone dei servizi, certo, ospedalieri, poi i soggetti più a rischio e successivamente anche categorie di interesse generale, quindi anche rispetto, insomma, si avanza, possiamo dire così? Più avanti si avanza. Professor Pregliasco, ci sentiremo presto, grazie, buona giornata. A tutti, buona giornata. Allora, vorrei dare la linea subito a Giovanni da Brescia, poi abbiamo Giorgio della provincia di Venezia, Renato da Milano, ma leggeremo anche Roberto da Bergamo, Mara, insomma, cerchiamo di dare voce a tutti. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto complimenti alla radio e alla trasmissione in particolare. Grazie. La domanda è questa: io ho una figlia di 14 anni che fa atletica, sì, e nel giro di 3 o 4 mesi ha avuto 2 distorsioni facendo il salto triplo. Ci sono 2 scuole di pensiero, una che dice è meglio la cavigliera stare a riposo e l'altra invece dice la manipolazione, l'osteopata. In questo caso, cioè dovessi ricorrere all'osteopata, il Servizio Sanitario Nazionale cosa fa? Grazie Giovanni, stia lì, che magari il dottor Galli ha bisogno di farle qualche domanda aggiuntiva, ma dottore. Sì, bisognerebbe capire bene innanzitutto l'entità di questo trauma distorsivo che ha subito, quindi se ha fatto degli esami per valutare in maniera così completa. Quali sarebbero gli esami da fare? Innanzitutto credo che abbia eseguito una radiografia di base. E poi, in secondo luogo, è importante fare una risonanza magnetica. Giovanni, l'ha fatto la sua ragazza? La radiografia sì, la risonanza magnetica no, anche perché nel primo caso è rientrato abbastanza velocemente. L'infortunio. Okay. Nel secondo caso si è, per così dire, creato come un leggero rigonfiamento che tende a rimanere nel tempo. Allora, 2 scuole di pensiero. Dottor Galli, lei a quale appartiene? Ma io credo che passato alla fase di riposo e essendo una volta superata i processi infiammatori bisogna poi riprendere, perché riprendere quindi il movimento, recuperare completamente il movimento, perché un'articolazione sappiamo che è adibita al movimento, quindi più sta ferma più diventa nociva per l'articolazione, per le cartilagini. E quindi credo che a questo punto debba recuperare. Quindi vuol dire riabilitazione. Ma l'osteopata al Servizio Sanitario Nazionale lo passa o no? Dottor Melegati. Ma l'osteopata no. Non lo passa al Servizio Sanitario Nazionale, anche perché la figura dell'osteopata è ancora bene da inquadrare. L'osteopata è una figura professionale importante che può avere un ruolo nel recupero di questo problema specifico, sì. Però oltre all'osteopata io penserei ad altro, vale a dire, io penserei innanzitutto a un buon fisioterapista che possa gestire bene il recupero di determinate caratteristiche che devono essere recuperate, come la completa mobilità, il controllo muscolare, la forza muscolare e una qualità che si chiama propriocettività, alla quale noi siamo molto affezionati, che è la capacità automatica di prevenire nuovi infortuni attraverso un percorso preciso di esercizi. Insomma, il sesto senso dei nostri muscoli, sarebbe, esattamente, in qualche modo. Giorgio, dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Complimenti vivissimi per la vostra trasmissione. Ma che gentile. Giorgio, ci racconti, che le succede? Allora, un anno e mezzo che vado avanti con dolori alla spalla. Oh mamma. Ho fatto un po' di terapie con un medico fisiatra. Fatto 2 risonanze magnetiche, non è mai evidenziato nulla, se non un po' di calcificazione alla spalla. Con un'ecografia successiva è risultato che ho, sovraspinato, il tendine sovraspinato, che è lacerato e deve essere sistemato. Giorgio, ma lei è stato ligio nelle indicazioni? Perché abbiamo, noi oggi abbiamo detto che insomma i riabilitatori devono convincerci a metterci tutta la buona volontà, ma noi dobbiamo collaborare. Lei ha collaborato? Per bacco. Quindi allora, dottor Melegatti, la colpa è vostra. Allora, che cosa è successo a Giorgio? La colpa è nostra e del fisiatra, se il fisiatra ha sottovalutato l'importanza della lesione. Sì. Se già il problema era rappresentato da una lesione, da una rottura della cuffia dei rotatori e in particolare di questa struttura che si chiama sovraspinoso, allora la riabilitazione evidentemente non è in grado di recuperare la funzione e in questo caso sarebbe stato utile rivolgersi al chirurgo. Se invece la rottura non è una vera e propria rottura ma è una tendinopatia con una calcificazione, allora lì bisogna capire bene se tutto è stato fatto nel migliore dei modi. Vale di dire, solito per queste situazioni quali sono le tecniche terapie che vengono proposte? C'è una terapia di elezione per la tendinopatia calcifica della spalla che è la terapia ad onde d'urto extracorporee. Sì. Le onde d'urto sono in grado di far scomparire nella maggior parte dei casi la calcificazione e in qualche modo rivitalizzare il tendine. È chiaro che queste onde d'urto devono essere poi seguite da un appropriato e un opportuno programma di rieducazione, quindi di recupero del movimento, eccetera. Giorgio, mi raccomando, ci tenga informato perché io non voglio che lei abbia male alla spalla. Vorrei conoscere proprio la migliore possibilità di fare un recupero, insomma, nel miglior dei modi. E certo, le onde d'urto, dice il dottor Melegatti, che potrebbero essere indicate, giusto? Potrebbero esserlo se non siamo di fronte a una rottura del tendine. Allora bisogna capire bene se questa rottura c'è o no. Sulla base della sola ecografia spesso è difficile riuscire a capirlo. È più importante la clinica, quindi la valutazione clinica di un buon fisiatro o ortopedico che si occupa di spalla e una risonanza magnetica, magari con un mezzo di contrasto. Allora, vorrei giocare d'anticipo, ci scrive Diego, 40 anni, dovrò operare il ginocchio per la cartilagine. Oltre a riabilitazione, cosa consigliate come preparazione pre-intervento? Dottor Galli, prima di andare sotto i ferri. È sicuramente importante arrivare a un intervento chirurgico ortopedico, a qualsiasi tipo di intervento, arrivare con una buona preparazione fisica, a maggior ragione un intervento sulle cartilagini. Quindi ritengo, perché qualsiasi intervento ortopedico crea comunque deprime la muscolarità. Sì. Quindi soprattutto per la cartilagine io consiglierei ad esempio una fase riabilitativa iniziale pre-intervento in acqua. Sì. Dove è possibile essere seguiti da un terapista in acqua o se questo non è sempre possibile in tutti i casi o perlomeno fare del nuoto in una piscina, quindi arrivare preparati con una buona articolarità e un buon tono muscolare. Dottor Melegatti, una risposta per Mara. Dopo l'intervento al tendine d'Achille che si era rotto, non ho fatto nessuna riabilitazione. Ora, dopo 10 anni, ho il polpaccio più piccolo e avverto dolori. Sono ancora in tempo? È ancora, decisamente è ancora in tempo, purtroppo ha perso del tempo, nel senso che non è bene rimanere con il polpaccio più piccolo, perché il polpaccio piccolo vuol dire debolezza del muscolo e quindi mancanza di forza e quindi non avere la capacità di recuperare in maniera completa per esempio lo schema del cammino o della corsa. Questo crea sovraccarico al tendine, certo. Il tendine si infiamma e provoca dolore. Andiamo a Renato che ci chiama da Milano. Renato, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Senta, io 5 anni fa ho avuto una rottura del tendine d'Achille alla gamba sinistra dopo una partita di calcetto. Operato, 2 mesi di gesso, 4 di riabilitazione in acqua e tutto andava benissimo fino a circa un mese fa. Che succede? Durante le mie normali partite di tennis, ultimamente alla mattina faccio fatica a camminare, sento dolore, ma sia sul sinistro che sul destro. Due o tre giorni di fastidio, dove quasi mi tocca camminare in punta di piedi, e poi ritorna tutto normale. Mi chiedo cosa posso fare o cosa devo fare, se devo andare da qualcuno a farmi vedere. Dottor Galli. Ma bisognerebbe capire se questa sintomatologia che riferisce è strettamente legata a, al tendine d'Achille, oppure questa può derivare addirittura dalla schiena, e quindi un interessamento di una discopatia a livello lombare che crea. Cosa la fa capire questo? Che cammina con la punta di piedi? Il Renato ci racconta: devo camminare in punta di piedi perché ho male, poi dopo due o tre giorni passa. Sì, anche questo, e poi il fatto sia anche bilaterale. Questa... Quindi lei dice: il tendine, secondo, insomma, è riparato e sta bene, potrebbe essere altra. Potrebbe essere altra, sì. Quindi bisogna farsi vedere da qualcuno. Da chi va Renato, dottor Melegatti? Può andare da un ortopedico o da un fisiatra, perché entrambe le figure professionali sono in grado di gestire, di fare diagnosi e di capire dov'è il problema. Renato, le conviene fare un saltino allora? Va bene, grazie mille. A lei, buona giornata. Nino, buongiorno a lei da Roma. Buongiorno. Eccoci. Io telefono, non diciamo per un problema mio, per un problema di un familiare che non ha potuto chiamare. Ha avuto la frattura al malleolo, adesso può appoggiare il piede a terra e deve iniziare tenendo il walker, quindi il quello particolare, lo speciale stivale, per una ventina di giorni, dopodiché può iniziare, a detta dell'ortopedico, la vera e propria rieducazione motoria, mettendo un calzettone elastico. Ecco, volevo sapere dal se è giusta questa indicazione. Voleva sapere un parere su questa indicazione dal dottor Melegatti. Quindi prima un tutore, poi la riabilitazione, sembrano degli step ben precisi. Sono sempre necessari? Sono corretti e sono, direi, sempre necessari quando si ha a che fare con una frattura. Ha parlato di frattura malleolare, il walker sostituisce il gesso, può sostituire il gesso, dipende molto anche dal tipo di frattura, ma credo che, se è stato consigliato il walker, cioè il tutore, sia opportuno. È opportuno portarlo per un periodo di tempo adeguato, che deve decidere il medico, e dopodiché bisogna iniziare un progressivo recupero dello schema del cammino e dell'appoggio. La calza elastica è consigliata assolutamente. La calza elastica è consigliata. Allora, i nostri esperti ci hanno dato delle indicazioni su come rimetterci in pista dopo un trauma, dopo un intervento chirurgico. Adesso noi affrontiamo un altro argomento che credo per loro sarebbe un po' difficile, vi spiacerebbe: il pulito, bianco pulito e senza germi. Non so se il dottor Melegatti, vedo che già non è preparato, infatti non interrogerò lui, neanche il dottor Galli, ma Alessandro Pellizzari ci ha raggiunto, vice caporedattore del mensile Star Bene in edicola. Ciao Alessandro. Ciao Nicoletta. Alessandro, tu puoi fare veramente un figurone, non so se tu sei un uomo di casa, ma hai preso tutte le notizie dal servizio di Star Bene, che si occupa proprio di bucato, sicuramente bianco, ma soprattutto un bucato igienizzato. Esatto, poi io faccio una bella figura grazie a una collaboratrice che è una donna che sa queste cose. Infatti, quindi... infatti non è farina del tuo sacco. Non è farina del Senti, mio sacco. Senti, prima di andare al bucato, però, ci sono degli strilli in copertina molto interessanti che sicuramente interesseranno gli ascoltatori di Radio 24, attenti alla prevenzione, allo stile di vita e quant'altro. Vogliamo ricordarli? Sì, beh, la dieta del mese è la dieta vegetariana, vogliamo farla conoscere perché ci sono molti dubbi e anche false idee sulla dieta vegetariana. Poi ci siamo concentrati anche sui panini, le ricette sane e light per la tua pausa pranzo. Sì. Tieni a bada l'ormone dello stress, un altro strillo, vivi meglio e ti ammali meno, soluzioni efficaci, perché lo stress è sempre forte, soprattutto in questo periodo. E poi per la parte più estetica, tu, estetica di coppia, tu e lui ritocchini soft e strong per fermare il tempo. Quindi adesso possiamo andare a fare il bucato, Alessandro? Assolutamente, io ho scoperto che molto spesso i trucchi della nonna funzionano, e come, perché per esempio Hai letto, cioè? Ho letto. Scoperto leggendo. Tu star bene. E, per esempio, per eliminare il calcare in modo naturale anche per igienizzare la lavatrice, e forse tu già lo sapevi, un programma di lavaggio a 60 gradi senza carico con un litro d'aceto, sì, è l'ideale. Aiuta. Mm. Aiuta assolutamente. Poi un'altra cosa importante è che a prescindere dal tipo di detersivo, sì, che noi usiamo, il fatto di aggiungere al bucato un cucchiaio di bicarbonato in polvere che si può comprare tranquillamente in farmacia, sì, rende l'acqua molto meno dura in anche certe al supermercato città. Anche al supermercato, in drogheria. Vedi, ecco, questo io non lo sapevo. No, mi sembra, perché però... sai che io sono più orientato, diciamo, sulla farmacia, come... quindi un'aggiuntina di bicarbonato, sì, rende l'acqua meno dura e però diluisce anche il detersivo in maniera migliore, quindi aumenta l'efficacia. Certo, quindi ne consumiamo bene, quindi salviamo anche un po' l'ambiente. Alessandro, ho visto che il dottor Melegatti e il dottor Galli erano assolutamente digiuni dell'argomento, quindi venendo qua, tornate con un'informazione in più che sarà utile anche a voi e alle molto vostre utile mogli. Quindi abbiamo fatto un'opera buona per la famiglia del dottor Melegatti e del dottor Galli. Alessandro, ti ringrazio, ti saluto, ti aspetto il prossimo mese con le novità. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata allora a voi che ci avete ascoltato, grazie, saluto il dottor Melegatti e il dottor Galli che sentiremo presto, noi ci sentiamo domani, se venite accompagnati io preferisco, buona giornata. Essere e benessere.